Nel 1809 i tedeschi Franz Josef Gall e Johann Caspar Spurzheim, rispettivamente maestro e allievo, diedero alle stampe la loro Mémoire concernant les recherches du système nerveux, eccetera, eccetera, e l'avevano presentata l'anno prima all'Institut de France, che, sentito il parere di una commissione appositamente creata, gli rispose picche, perché da un punto di vista strettamente scientifico le loro tesi non stavano assolutamente in piedi. Punto e basta. Basta, però non del tutto. Gall sosteneva che alle suddivisioni del cervello umano corrispondevano le diverse facoltà morali e intellettuali e che qualcosa di ciò fosse ben visibile nella conformazione di quei crani dove per l'appunto i cervelli hanno sede. Ad ogni gibbosità o protuberanza, insomma, avrebbe dovuto corrispondere un organo deputato a svolgere le varie funzioni che caratterizzano i comportamenti umani. Così ci sarebbe stato un organo per la percezione delle cose, uno per la loro memoria, uno per la loro comparazione, uno per la memoria delle parole invece, uno per il senso della musica e così via, enumerando. Ci sarebbe stato perfino un organo per la capacità di dipingere. Forse perché erano tedeschi, forse per pura acutezza di giudizio, forse anche perché queste tesi riscuotevano il favore popolare, alcuni studiosi francesi intervennero rapidamente e duramente. Fra questi, tempestivo in modo particolare, fu François-Pierre Gontier de Biran, autoribattezzatosi più tardi come Man de Biran, che scrisse alcune severissime osservazioni sulle divisioni organiche del cervello, appena tradotte finalmente in lingua italiana. In queste osservazioni sulle divisioni del cervello, Man de Biran giunge alla conclusione che qualsiasi parallelo tra le divisioni fisiologiche delle funzioni vitali o delle loro sedi organiche e la divisione psicologica delle idee o facoltà intime del soggetto pensante sono assolutamente illusorie. Ora, così come l'affermazione di Man de Biran è stata ampiamente ignorata dagli scienziati che gli succedettero, così qualche porziuncola delle tesi di Gall, nonostante tutto, nonostante le critiche, ha continuato a godere del favore popolare. Quando ero bambino, sentivo dire spesso del tale o del tal'altro, non so, che aveva il bernoccolo della matematica o il bernoccolo della musica, no? Mentre a me, gli unici bernoccoli che mi furono riscontrati, più che di meriti, erano sicuri segni di difetti. Venerdì, due giorni or sono, nella sontuosa cornice del Palagio di Parte Guelfa in Firenze, sotto il patrocinio della pubblica amministrazione, è stata inaugurata una mostra di pittura intitolata The Power of Color. Non so l'inglese, d'accordo, ma sarei stato anche tentato di tradurlo, ecco, come per esempio il potere del colore, no? Se sulle locandine non avessero fatto bella mostra di sé le sorridenti fattezze di Romina Power. L'indimenticabile interprete di Menage all'italiana, di Assicurasi Vergine o di Justine, ovvero le disavventure della virtù, o mutando arte, la cantante, o mutando ancora arte, sì, la scrittrice, perché fu l'autrice di Ho sognato Don Chisciotte, beh, e dunque è anche pittrice. 50 tele trattate ad oli e spatolate stanno lì a dimostrarlo. Come attestano le interviste, d'altronde, Romina dipinge da quando aveva 14 anni. Tavolozza, colori e cavalletto se li è trovati in casa perché sua madre, l'attrice Linda Christian, sua madre dipingeva, e dipingeva sua zia, e dipingeva suo nonno. A suo avviso, dunque, ci sarebbero tutti i motivi per affermare che a lei nel sangue scorre la vena pittorica. Non si sa se dipingesse il bisbisnonno di Romina, quel primo Tyrone, attore e scrittore, cui si riesce a risalire, il primo, che nacque nel 1797. Il nonno di cui parla Romina è Frederick Tyrone, attore anch'esso e padre di un Tyrone che, attore, guarda caso, fece fremere molti cuori femminili senza ricavarne peraltro grandi soddisfazioni. Quest'ultimo Tyrone, ultimo per il momento perché sulla prosecuzione della serie sarei pronto a scommettere, e quest'ultimo Tyrone ha letteralmente vissuto per il successo. Dopo il successo per l'appunto di Sangue e Arena nel 41, diceva che se fosse sceso in una qualsiasi strada di città del mondo non sarebbe passato un minuto senza che qualcuno lo riconoscesse. Interpretò più di 40 film fra il 1930 e il 1958, allorché, mentre interpretava Salomone e la regina di Saba, ci lasciò la pelle per un infarto e il suo posto accanto alla Gina Lollobrigida venne preso da Yul Brynner. La frequenza dell'attore nell'albero genealogico di famiglia, come l'invocata presenza altrettanto cospicua della pittura, indurrebbero a ratificare una qualche versione delle tesi di Gall, no? Non ci saranno i bernoccoli empiricamente palpabili, ma c'è il sangue, quel sangue niente affatto metaforico, esattamente come quello versato dal torero nell'arena, senza parlare del toro, per carità di patria. Non ci saranno i bernoccoli, ma ci sono minuscole particelle di ars pittorica che si acquisiscono ereditariamente di individuo in individuo. Romina non è neppure sfiorata dall'idea che le cose possano stare diversamente, che lei, per esempio, come i suoi familiari, ha potuto crescere in un ambiente favorevolissimo, dove tutto ciò che si poteva desiderare era lì, a portata di mano, dove ogni cosa sembrava non costare nulla, dove non si conosceva la fatica fisica e dove, in poche parole, c'erano le condizioni per sviluppare certe attitudini e non altre. Sembra sfuggire a Romina che la facoltà di danzare saltellando da un'arte all'altra è una facoltà raramente concessa ad esseri umani ai quali censo e conto in banca non garantiscano privilegi di sorta. Quando interpretava la povera Justine del Marchese de Sade, evidentemente era distratta. Dalle interviste e dalla visione dei suoi dipinti ricavo anche una curiosa dichiarazione di poetica da parte di Romina: e i suoi soggetti umani sono sempre colti di spalle. A domanda risponde che non le piace che le persone posino per lei, che preferisce coglierle di sorpresa. Le fotografa e poi il quadro se lo dipinge a casa, e assicura che anche di spalle si capisce l'umore e lo stato mentale della persona raffigurata. Thomas Mann, che era Thomas Mann, aveva meno pretese. Nella Montagna Incantata, che è un ricchissimo prontuario di situazioni in cui il narratore coglie corpi che in qualche modo parlano, e li coglie in quell'attimo ed in quel contesto, non successivamente ed in fotografia. Nella Montagna Incantata c'è un momento in cui Giovanni, il protagonista, smette improvvisamente di parlare in carrozza perché dalla rigidità della sua schiena si rende conto che il cocchiere sta ascoltando quel che stava dicendo al suo vicino. Che Romina faccia poco i conti con le condizioni al contorno delle attività umane è anche testimoniato dall'ambrata e calda fotografia che funge da copertina del catalogo delle sue opere. C'è lei al cavalletto, ovviamente, a quel cavalletto dove la metafora del sangue e le disponibilità finanziarie l'hanno portata. Pennello nella destra e Tavolozza nella sinistra. È intenta all'opera. Purtroppo, oltre a numerosi bracciali dorati che impedirebbero polsi più fermi, Romina indossa una sontuosa tunica bianca a maniche ampie e penzolanti, un festival di ariose volumetrie e di morbide pieghe, la gioia per qualsiasi lavanderia. Il dipinto pare concluso, ma grazie al magico potere dei colori, the power of color, la tunica è immacolata, come la coscienza politica di chi la indossa. Well, it's still racing down the trestles, but that blood had never